Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Prima di tutto, buon Natale a tutti voi. E oggi c'è una puntata speciale del Falco e il Gabbiano, in occasione di quella che è o dovrebbe essere la festa dei buoni sentimenti, dei valori importanti. Quindi abbiamo scelto di dedicare la puntata di oggi alla beatitudine, alla difesa della terra e alla libertà. E lo abbiamo fatto riprendendo tre nostre storie, tre storie di personaggi di cui abbiamo già parlato e di cui vi faremo un sunto moltiplicato tre. E tre personaggi che secondo noi rappresentano bene i valori a cui fare riferimento nella propria vita, perché vi parleremo prima del Maharishi, l'uomo che ha insegnato al mondo a meditare e a cercare la beatitudine, e poi di Chico Mendes, il Cristo delle foreste, morto per salvare l'Amazzonia e le popolazioni di questa terra, e infine di Cavallo Pazzo, lo spirito dei nativi americani, il simbolo della resistenza, del desiderio di libertà di un popolo che è stato scacciato dalle sue stesse terre. E cominciamo col Maharishi Mahesh Yogi, che è il piccolo uomo dalla vocetta acuta i cui occhi hanno visto la beatitudine. Lui nasce in un piccolo villaggio indiano intorno al 1918, non si sa bene quando. È un bambino fortunato, nasce in una casta di militari, quindi la sua famiglia gli può dare la possibilità di studiare fino all'università. Più che agli studi, però, lui sembra interessato allo spirito, per questo si reca da uno swami, che è un maestro, in Himalaya. Dopo molti anni di apprendimento, decide di dedicare il resto della sua esistenza a trasmettere gli insegnamenti del suo venerato maestro al di fuori del monastero. Ma qual è l'insegnamento che Maharishi porta con sé dall'Himalaya? L'insegnamento è meditare, da secoli lo strumento più importante di tutta la filosofia indiana. È una pratica che, attraverso la capacità di concentrarsi sul momento presente e allo stesso tempo di liberare la mente da ogni pensiero, porta a una maggiore comprensione di se stessi e del mondo che ci circonda. The principle of transcendental meditation is simple. Il principio della meditazione trascendentale è semplice. L'essere è per sua natura felice. È infinita felicità e la mente si muove sempre nella direzione di una maggiore felicità. È esperienza di tutti che la mente aspiri alla felicità. E poiché la natura dell'essere più profondo è questa spinta verso la felicità, la mente, durante la meditazione trascendentale, raggiunge questa naturale tendenza in modo più spontaneo. Eh sì, la sua rivoluzione è di trarre dalla meditazione tradizionale un metodo semplice e universale che sia utilizzabile in ogni momento della propria giornata e rendere così tutto questo uno strumento efficace per conquistare quello che noi cerchiamo da sempre, una pace interiore, e per aumentare lo stato di allerta della propria coscienza, per espandere le proprie capacità intellettuali e spirituali. Maharishi chiama questo tipo di meditazione la meditazione trascendentale. Ripetendo un suono chiamato mantra, un suono specifico, ognuno ha il suo, bastano pochi minuti al giorno di meditazione per raggiungere uno stato mentale di grande quiete, di potenziamento delle proprie facoltà. Secondo Maharishi, il rilassamento, la gioia e eventualmente anche il raggiungimento della beatitudine sono gli effetti benefici della sua meditazione trascendentale. Quella di Maharishi è una piccola, grande rivoluzione. Come sempre, il seme della rivoluzione bisogna piantarlo dappertutto. Per esempio in Gran Bretagna, dove Maharishi si reca nel 57, poi 10 anni dopo nel 67, negli anni d'oro per il Regno Unito, gli anni della Swing in London, soprattutto gli anni dei Beatles, gli anni in cui i Beatles, all'apice del loro successo, cominciano a sentire, come dire, le ansie, le paranoie che arrivano in quei casi, e loro vogliono sperimentare cose nuove. Così quando vengono a conoscenza di una conferenza tenuta da Maharishi sulla meditazione trascendentale, i quattro ragazzi di Liverpool decidono di partecipare. It was actually George Harrison's wife, Patty. Fu la moglie di George Harrison, Patty, che seppe che Maharishi stava arrivando e disse che tutti noi avremmo dovuto andare a sentirlo. Io non ero in un buon periodo della mia vita. Stavo esagerando in tutto. Erano gli anni 60. Avevo perso il mio centro e stavo cercando qualcosa di diverso. Credo che fosse lo stesso per tutti noi. I Beatles stanno cercando di gestire interiormente il loro successo planetario, un successo che mai più si ripeterà in quei termini, quindi che ovviamente ti fa impazzire. I Beatles non potevano uscire di casa, erano un mito, qualsiasi cosa dicessero creava una serie di reazioni a catena. Insomma, tutti e quattro si stanno sentendo a disagio e l'incontro col Maharishi coincide con un periodo particolare della loro vita e un periodo nel quale tra l'altro c'erano anche grandi eccessi, droghe, in particolare l'LSD. Insomma, cercavano ognuno a modo suo, ma sempre secondo quello spirito di ottenere delle risposte alle loro domande, alle loro ansie. Così George Harrison, che è forse il più sensibile tra i quattro, sente il bisogno di raggiungere un livello più alto di consapevolezza. Volevo iniziare a meditare, ma un conto è voler imparare, un altro è sapere come fare. Ero arrivato al punto in cui mi serviva un mantra. Solo che tu non puoi andare da Harrods e chiedere un mantra. E fu allora che un amico mi mostrò la notizia che ci sarebbe stata una conferenza tenuta da qualcuno chiamato Maharishi. E avvicinandosi al Maharishi, i Beatles sperano di poter apprendere qualcosa di nuovo, di più efficace per il raggiungimento di un nuovo livello di consapevolezza. Così decidono, ed è una decisione storica di cui tutto il mondo parlerà, decidono di accettare il suo invito. Nel febbraio del 68 arrivano nell'ashram di Rishikesh, ai piedi del massiccio dell'Himalaya. Arrivano lì perché vogliono trascorrere un mese immersi nella meditazione. Dopo molti anni, McCartney ancora ricorda il luogo in un'intervista concessa a un altro grande dedito alla meditazione, il regista David Lynch. Il posto era molto semplice, niente di elegante. Ti svegliavi la mattina e facevi colazione, una colazione leggera. Si scambiava qualche parola con gli altri ospiti per conoscersi e poi si tornava con la propria meditazione mattutina. Ognuno di noi aveva il proprio bungalow, semplice ma in ordine. Ti sedevi e meditavi, poi si pranzava. Quindi regole, ordine, tranquillità. Dopo il delirio che stavano vivendo negli ultimi anni, i Beatles hanno bisogno di qualcosa del genere per poter ritrovare la pace, il contatto con loro stessi. Ci furono momenti molto belli. Ne ricordo uno in particolare accaduto mentre stavo meditando da un po' e che mi portò in un bel luogo. Ricordo che mi sentivo come una piuma. Ero veramente una piuma che volteggiava su dell'aria calda. Una bella sensazione che ancora ricordo vividamente. E lo dissi a Maharishi. E lui mi rispose, sì, questo è buono. Yes, this is good. E a Rishikesh non ci sono solo i Beatles, ci sono altre personalità, tipo Donovan, Mick Love dei Beach Boys, Mia Farrow che si è appena separata dal marito Frank Sinatra. Insomma, una serie di personaggi molto famosi, ma anche molto in difficoltà con i meccanismi della vita. Mia Farrow, insieme alla sorella Prudence, da cui poi Dear Prudence, è lì in India. La sua esperienza è positiva, però anche piena di momenti particolari, come racconta lei stessa anni dopo a una conferenza. Bisognava portare frutta e fiori al Maharishi e lui ti dava il mantra. Solo che io ero allergica e c'erano un sacco di fiori. E così quando mi chinai per avere la mia parola speciale, starnutii e non capii esattamente cosa mi avesse detto. E così chiesi, scusi, non ho capito, ma lui sorrise e basta. E per tutto il periodo che restai lì, ed è stato tanto, non ha mai voluto ripetermela. E io credo che sia per questo che non ho raggiunto l'illuminazione che credevo. Insomma, il luogo, il contesto è particolare e ci sono varie spiegazioni e varie opinioni sul Maharishi. Comunque lui ogni sera raccoglie questo gruppo di giovani miliardari, ascolta le loro perplessità, i loro dubbi, le loro paure, li invita a cercare ancora più profondamente l'origine della felicità proprio dentro di loro. Fra tutti i presenti, la più seria è abbracciare le tecniche di meditazione trascendentale, ma forse abbracciare non solo quelle, è senz'altro Prudence Farrow, che ogni giorno si ritira nel bungalow per ore in modo così appassionato che i Beatles la prendono anche un po' in giro. John le dedica addirittura una canzone, lo dicevamo prima, la famosissima Dear Prudence, in cui la invita a uscire di più, a giocare con loro. Mia Farrow ricorda ancora l'invidia che provò, perché insomma non è da tutti avere una canzone dedicata dai Beatles. I Beatles erano davvero divertenti e io avevo proprio bisogno di ridere, e tutto l'ashram risuonava con Obladi Oblada. Scrissero anche una canzone, Dear Prudence. Era per mia sorella, sapete? Dear Prudence. E onestamente io avrei dato tutto perché fosse Dear Mia e che chiedessero a me di uscire e andare a giocare. Ma non è andata così. Comunque è stato un periodo molto divertente, anche se non ho imparato niente. Beh, però, siccome i Beatles fondamentalmente erano quattro geni, il frutto del mese passato in India è musica, The White Album, il doppio disco dei Beatles, forse, insomma, per gli intenditori più fini, il migliore album dei Beatles. Dentro ci sono canzoni appunto come Dear Prudence, ma Obladi Oblada, ma c'è While My Guitar Gently Weeps, una delle più belle canzoni scritte da George Harrison, c'è Revolution, c'è Blackbird. E loro hanno sempre dichiarato che gran parte dell'ispirazione dell'album fu il risultato del periodo trascorso lì dal Maharishi. Per lui naturalmente non poteva esserci pubblicità migliore dei milioni di copie che l'album dei Beatles, il White Album, vendette in tutto il mondo. E da allora nel mondo sono nate fondazioni che sostengono la meditazione trascendentale, televisioni, centri anche di potere, ma comunque molti studi scientifici ammettono che meditare con costanza quantomeno migliora la vita, perché rende più resistenti allo stress, riduce l'ansia, riesce addirittura a farti controllare alcuni problemi fisici. Il Maharishi muore a 90 anni nel 2008, ma la meditazione trascendentale nel frattempo è diventata un fenomeno che coinvolge decine di milioni di persone in centinaia di paesi diversi, tutti alla ricerca di un benessere e di una felicità che il mondo e il tipo di vita occidentale non sono in grado di darti, una felicità che vada al di là della più immediata soddisfazione personale. E tutto questo grazie a un ometto, un omino con una voce un po' stridula, che era il Maharishi, quello che Paul McCartney ricorda con affetto in un'intervista rilasciata il giorno dopo la sua scomparsa. Mi è stato chiesto cosa ne pensi della scomparsa di Maharishi Mahesh Yogi avvenuta ieri, e posso solo dire che, mentre sono profondamente dispiaciuto per la sua morte, le memorie che conservo di lui sono solo felici. È stato un grand'uomo che ha instancabilmente lavorato per la gente nel mondo e per una buona causa. Non dimenticherò mai la dedica che scrisse in un libro che mi diede una volta, che diceva «Irradia beatitudine e coscienza». E questo per me dice tutto. Mi mancherà, ma penserò a lui sempre con un sorriso. Il falco e il gabbiano. In questa puntata speciale di Natale abbiamo parlato di beatitudine con la storia di Maharishi Mahesh Yogi, e adesso vogliamo parlarvi di un uomo che ha fatto discutere il mondo proprio durante i giorni delle feste di Natale, 27 anni fa. Cominciamo con una data, il 15 dicembre dell'88, in una terra molto lontana, l'Amazzonia, il polmone verde del pianeta. Stiamo parlando di Chico Mendes, e questo è il giorno in cui l'uomo che poi verrà chiamato il Cristo della foresta compie 44 anni. Siamo nel nord-ovest del Brasile, a Chapuri, e lui festeggia con la moglie e i suoi due figli, Elenira e Sandine, con gli amici più cari, in quella che sembra un'ultima cena. Grazie per gli auguri, ragazzi, ma credo che quest'anno non arriverò a Natale. È una frase terribile, impegnativa, ma lui se lo sente, sa che qualcosa sta per accadere e perché è minacciato da molto tempo, vive con una scorta armata e lui, che era un povero figlio di siringheiros, i raccoglitori di caucciù, è diventato un grande combattente. Negli anni è riuscito a unire contadini, indios, sindacalisti, preti, politici attorno alla sua idea, un'idea rivoluzionaria della foresta, un luogo senza padroni in cui alberi e uomini possano vivere e crescere assieme, gli uni custodi degli altri. È Chico che partecipa alla fondazione del sindacato dei lavoratori rurali di Brasileia e Xapuri. È Chico che nell'81 partecipa alla nascita di quel partito dei lavoratori che oggi è rappresentato da Lula. È Chico, diventato segretario generale del sindacato dei lavoratori rurali, che è nel mirino dei latifondisti che lo vogliono morto. Se scendesse un inviato del cielo e garantisse che la mia morte sarà utile a rafforzare la nostra lotta, ne varrebbe la pena. Ma l'esperienza ci insegna il contrario, quindi voglio vivere. Cerimonie pubbliche e funerali non salveranno l'Amazzonia. Lui si interessa alla sua terra, la difende. Nel 70, quando i militari incentivano lo sfruttamento dell'Amazzonia, i latifondisti del sud invadono le regioni di Acre e Rondonia, iniziando i grandi disboscamenti. È proprio in quegli anni che nasce il movimento di resistenza dei siringheiros, con l'obiettivo di impedire la distruzione della foresta e di creare aree protette, riserve estrattive che potessero essere gestite da comunità locali. Inizia la lotta, l'occupazione pacifica da parte di uomini, donne e bambini degli accampamenti e dei macchinari dei fazenderos. Di fronte ai militari, di fronte alle armi, i lavoratori con i figli a seguito si schierano tutti vicino, cantano l'inno del Brasile, come a dire: siamo tutti uguali, siamo tutti brasiliani. Ouvirando Ipiranga, as margens plácidas de povo heroico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Ma avere grandi ideali, combattere contro i ricchi latifondisti, può costarti veramente caro. Però Chico Mendes è un uomo forte, lo racconta anche un suo caro amico Edison Maltins. Chico era un uomo molto firme. Chico era una roccia, un uomo determinato, coraggioso. Chico sapeva che andava a morire. Aveva la coscienza chiara che andava verso la morte. Neanche per un attimo vacillò e nemmeno per un attimo entrò in panico. Insomma, la storia di Chico Mendes si trasforma in breve in una cronaca di una morte annunciata, come avrebbe detto Gabriel García Márquez. È una lotta che non posso interrompere. Ci sarà un giorno in cui riceverò delle pallottole assassine e allora la polizia dovrà dimostrare se è disposta a far rispettare la legge o a difendere gli interessi dei banditi. E quel giorno arriva, e come aveva predetto lui quando disse non arriverò a Natale, arriva il 22 dicembre del 1988. Due killer lo aspettano fuori casa, lo centrano con un fucile da caccia in pieno petto. È un omicidio premeditato da tempo, però la sua morte non rimarrà senza voce. La notizia arriva anche sulla prima pagina del New York Times. Il brasiliano che ha lottato per difendere l'Amazzonia è stato ucciso. La TV nazionale brasiliana lo fa subito notare. A morte do ecologista foi destaque em todo o mundo e primeira página do principal jornal americano, New York Times. A reportagem traz o titolo: O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. Due anni dopo la morte di Chico Mendes, nel dicembre del 90, Darley Alves da Silva, proprietario terriero e allevatore locale con il quale Chico si era scontrato più volte, riceve la sua condanna, 19 anni di prigione per essere stato il mandante dell'omicidio. Suo figlio 22enne Darcy riceve la stessa condanna, ma per essere stato l'esecutore materiale. Sono in molti a credere però che dietro a loro ci fossero ben altre menti, ancora più potenti, più preoccupate, non so, i costruttori delle nuove autostrade o i grandi proprietari terrieri. Però se Chico viene ucciso non viene certo dimenticato. Il suo lavoro viene riconosciuto internazionalmente, considerato uno dei più influenti difensori della natura, e artisti di tutto il mondo lo piangono, lo ricordano. Anche tra loro c'è ancora Paul McCartney, che gli dedica una canzone dal titolo How Many People. Per questa ferrea volontà di salvare la sua foresta, che è anche la nostra foresta, la foresta di tutti noi che abitiamo il mondo, ho voluto oggi ricordare Chico Mendes, un uomo che con la foresta amazzonica ha sempre avuto un rapporto fisico, intimo, speciale, perché per lui l'Amazzonia era un luogo senza padrone in cui alberi e uomini potevano vivere e crescere assieme. Come ho detto prima, gli uni custodi degli altri. Questo è sempre stato il suo sogno e la sua visione. Ci sono molte storie e molte cose interessanti. Il mistero della foresta. Se vai a cercare di notte nella foresta, vedi molte cose paurose, quasi soprannaturali. Quando racconti queste esperienze al resto del paese, al di fuori dell'Amazzonia, la gente si mette a ridere e non ci crede. Ma qualsiasi persona che venisse in Amazzonia e si dedicasse a vivere nella foresta, incomincerebbe a vedere queste cose e non c'è da avere paura. Sono cose della natura e fanno parte del nostro rapporto con lei. Do relacionamento nosso. Il falco e il gabbiano. E torniamo con la puntata speciale di Natale, una puntata nella quale stiamo alla ricerca di quei valori sui quali è opportuno riflettere. Abbiamo parlato del Maharishi Mahesh, l'uomo che ha insegnato come cercare la beatitudine. Abbiamo parlato di Chico Mendes, un uomo molto diverso, battagliero, il Cristo dell'Amazzonia, quello che difendeva i diritti di un popolo, di una foresta e quindi di un principio. Adesso parliamo di un altro uomo la cui vita rappresenta oggi un simbolo universale, quello della lotta per la libertà e proprio della lotta per la difesa delle persone che amiamo. Sto parlando di Cavallo Pazzo, il grande guerriero Sioux che dedicò la propria vita alla resistenza, alla difesa di un popolo, il popolo dei nativi americani, i cosiddetti indiani. È la storia di Tatanka Wiko. Tatanka. Tatanka. Tatanka. Bisonte. No. Bisonte. Tatanka. Bisonte. Il feroce, come lo chiamo io, deve essere uno molto scorbutico. Spero di non doverlo mai affrontare, anche se mi sembra molto leale e diretto. Il tranquillo invece mi piace moltissimo. Ha dimostrato di essere paziente, curioso, di avere voglia di comunicare. Deve essere un personaggio di rilievo nella sua comunità. Bisonte. In quella scena di Balla coi lupi con Kevin Costner si racconta un incontro pacifico, quello tra un soldato americano, una giubba blu e due indiani Sioux, un incontro di culture curiose l'una dell'altra. Bene, la storia sappiamo bene, non è andata così, anzi, il risultato dell'incontro tra i bianchi che gli indiani delle pianure chiamavano con disprezzo Washichu, cioè quelli che rubano il grasso, e i nativi americani è stato un vero e proprio genocidio, l'annientamento di un popolo, il biglietto di presentazione degli americani al mondo. Hanno annientato una cultura millenaria, un sistema di vita, e hanno fatto vedere al mondo che cosa erano in grado di fare e come sarebbe andata nei 200 anni successivi. È uno scontro che il nostro protagonista ha vissuto nella sua fase più importante e lui ne è uscito vinto ma non sconfitto. Sentiamo Charles Chip, guida spirituale della tribù di Cavallo Pazzo, gli Oglala Lakota. It was only his body that was killed. Fu solo il suo corpo ad essere ucciso, non il suo spirito, poiché tutto ciò che oggi muore, muore nel corpo, non nello spirito. Qualcuno dice che Cavallo Pazzo non ha bisogno di una lapide, perché è la terra ad essere il suo segno distintivo, perché lui credeva che questa terra appartiene a Dio, l'Onnipotente, e noi nativi crediamo che siamo noi ad appartenere alla terra, e non viceversa. E non la terra belong to us. Di Cavallo Pazzo per molto tempo si è saputo pochissimo, neanche il suo anno di nascita. Tutto quello che si conosceva arrivava da fonti non molto oggettive, cioè quei bianchi che l'avevano combattuto, che avevano distrutto il suo popolo. Questo fino al 1930, quando una ricercatrice americana, Eleanor Hinman, riuscì a intervistare alcuni vecchi indiani ormai da decenni confinati nelle riserve, indiani che l'avevano conosciuto bene, tra questi un suo caro amico e compagno di battaglia, Louis Kane, che per primo rivelò notizie importanti su Crazy Horse a partire proprio dall'età. come tutti i Sioux, lui non nasce con questo nome, gli verrà ceduto dal padre più avanti. Il primo nome che gli viene assegnato è quello che suona un po' come Riccetto, Ricciuto, per il suo strano aspetto così diverso dagli altri indiani, e non solo, per quegli strani capelli quasi ricci di un strano castano chiaro. Ecco come lo descrive un altro amico, Toro Basso. Le sue fattezze non erano simili a quelle di tutti noi. Il suo viso non era largo e aveva un naso alto e sottile. Ai suoi occhi non sfuggiva nulla di quello che aveva intorno. Nasce in una tribù di Oglala Lakota, una delle tante propaggini dei Sioux, come le chiamano genericamente. Nasce nella zona delle colline nere, le colline sacre dei Sioux, dove questa tribù dominava con la forza su altre popolazioni native confinanti. Un popolo potente di cacciatori, di guerrieri, come racconta Joseph Marshall III, lo storico dei Lakota. The Lakota controlled the largest territory. I Lakota controllavano il territorio più vasto, dal fiume Missouri fino alle montagne del Bighorn e a sud fino alla regione del fiume Platte. E questo dimostra non necessariamente la loro aggressività, bensì la vastità della popolazione e la loro volontà di difendere quel territorio. I loro nemici erano i Crow e gli Apani nel sud, i Ricoro nel nord, ed ogni incursione nel loro territorio veniva respinta immediatamente. E sembrava quindi legittimo ricacciare questi invasori nelle zone da cui provenivano. Era necessario dimostrare a chiunque venisse percepito come nemico che quello era un territorio Sioux. This was Sioux territory. La vita di quello che diventerà Cavallo Pazzo prima dello scontro finale con i bianchi è questa: cacciare, fare scorribande contro le tribù vicine. Fin da ragazzo il nostro protagonista si mette in luce nella tribù per la sua grande generosità, per una sua abitudine, quella di regalare cibo alle famiglie senza un cacciatore in casa capace di procacciarselo, come le donne rimaste sole o i vecchi. Cavallo Pazzo cresce nella zona delle colline sacre dei Sioux, le Black Hills. Il padre gli cede il nome e lui, proprio dopo che è tornato da una scorribanda contro una tribù confinante, e ha due scalpi nelle mani. Gli anni di un passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta per un indiano sono quelli in cui si cerca la visione, una specie di rito. Lui si allontana dal suo accampamento da solo, non esegue i riti di purificazione previsti, neanche aspetta i consigli di qualche anziano, semplicemente se ne va in cerca della sua visione. Sentiamo ancora lo storico dei Lakota, Joseph Marshall III. He went to an isolated area. Si ritirò in un'area desertica e non beve acqua né mangiò per giorni. Nella nostra cultura, questo processo di indebolimento dovuto al digiuno porta all'apertura del corpo e della mente per ricevere la visione. Lui attraversò quel processo ed ebbe la sua visione. Ed essenzialmente quella visione era il suo stesso futuro. Was his own future. E la visione che lui cerca arriva, la racconta così Larry McMurtry, autore di un libro sul guerriero Sioux. Sembra che egli avesse sognato un cavaliere che si librava in aria sopra le praterie. Il cavaliere era vestito in maniera molto semplice, non aveva il viso dipinto ed era al contrario estremamente umile. Il suo cavallo, che volteggiava nell'aria, sembrava in qualche modo magico. Il cavaliere disse a Cavallo Pazzo che non avrebbe dovuto agghindarsi né indossare abiti da guerra. Gli era concessa solamente una piuma. Gli fu detto poi di gettare una manciata di sabbia sul suo cavallo prima di lanciarsi nella lotta e di portare una piccola pietra dietro l'orecchio. Pare che la visione quindi gli avesse mostrato una battaglia durante la quale le braccia del cavaliere venivano a un certo punto bloccate proprio da qualcuno della sua gente. Tuttavia, né un proiettile né una freccia lo colpirono. Il cavaliere raccomandò a Cavallo Pazzo di non tenere mai nulla per se stesso. E lui seguirà queste indicazioni per tutta la vita, non vestirà mai in modo sgargiante, i suoi colori anche in battaglia saranno molto semplici, e vivrà poi col timore, che poi si rivelerà purtroppo fondato, di morire per mano o con il coinvolgimento della sua gente. Però l'idea intanto che lui si fa dei bianchi è determinata da un episodio della sua gioventù, una delle prime immotivate stragi per opera di soldati americani contro un villaggio indiano. Si allenavano per il 900 e per il 2000. La vicenda è questa: una mucca di proprietà di un mormone si allontana dai legittimi proprietari, si avvicina all'accampamento dove vive il nostro protagonista. Un guerriero del campo la cattura, la macella senza pensarci troppo su, e il mormone chiede aiuto alla guarnigione militare. I soldati chiedono agli indiani di consegnare il responsabile e i Sioux invece propongono di risarcire il mormone con una quantità di cavalli e di valore ben superiore a quello della vacca. E i soldati, che da tempo cercavano una scusa per dare una lezione agli indiani, concludono la vicenda come nella migliore tradizione della cavalleria americana: un attacco al villaggio e il massacro di guerrieri, donne, vecchi e bambini. Il buongiorno si vede dal mattino. Cavallo Pazzo, che non è all'accampamento, al suo ritorno trova lo scempio. Ancora sentiamo cosa dice lo storico Joseph Marshall. Elaborò la sua opinione sui bianchi in seguito a questo incidente, e questo fu all'origine del suo atteggiamento da quel giorno in poi. Da quel giorno non ebbe più alcuna fiducia nei confronti dei bianchi. E questa è solo una delle tante stragi contro le quali si muoveranno i guerrieri Sioux, e non solo loro. E Cavallo Pazzo, negli anni che vanno dal 1850 al 60, diventa il leader della guerra insieme a un altro grande personaggio, Toro Seduto, della tribù dei Sioux Unpapa. È una sorta di guida spirituale degli indiani ribelli. Nel 64 i soldati del terzo cavalleggeri del Colorado compiono una delle stragi più efferate. Agli ordini del colonnello John Chivington si lanciano su un villaggio Cheyenne e sul fiume Sand Creek. Ci sono soprattutto persone inermi, ne uccidono un numero imprecisato tra i 125 e i 175. Sull'onda di quel massacro molte tribù di nativi, come abbiamo imparato da tanti film, dissotterrano l'ascia di guerra. Le imprese di Cavallo Pazzo contro gli invasori bianchi gli portano da subito grandi onori tra la sua gente, ma anche grandi invidie, soprattutto da parte degli altri personaggi di rilievo dei Sioux, tra cui il famoso Nuvola Rossa, l'uomo degli storici accordi di pace con il grande padre bianco che sta a Washington, in pratica quello che venne fregato dai bianchi perché fu quello che credeva ai bianchi. In quegli anni Cavallo Pazzo diventa portatore di casacca degli Oglala. È un ruolo importante nella società Sioux perché ha la responsabilità di pensare sempre al bene della sua gente prima che al suo. Però lui non è solo un grande guerriero, è anche e soprattutto un uomo. La casacca la perde per una donna, spesso accade così. Per una storia d'amore, in sintesi, si innamora di una donna già promessa a un compagno di tribù, e quando i due sono ormai sposati, lui convince la ragazza a scappare con lui. Una pratica accettata dai Sioux a fronte di un risarcimento. Però il marito tradito, diciamo, che si chiamava Senz'acqua, non ci sta a fare la figura del cornuto, e quindi insegue la coppia, li raggiunge, entra nella tenda, spara in faccia a Cavallo Pazzo e si riprende la moglie. Lo colpisce sotto la narice sinistra, spaccandogli la mandibola. Il proiettile entra, esce, e Cavallo Pazzo guarisce, però gli viene tolta la casacca perché non ha anteposto il bene della tribù al suo. Nel frattempo i bianchi hanno smesso di spararsi tra loro, è finita la guerra civile americana, si concentrano militarmente nelle grandi pianure. Adesso il nemico comune è quello degli indiani da spazzare via. Sono gli anni della guerra di Nuvola Rossa, partecipa anche Cavallo Pazzo, e mentre da un lato intrattengono i capi indiani in diversi consigli di pace, gli americani aprono una pista proprio vicino alle sacre colline nere, la cosiddetta pista Bozeman. Costruiscono fortini per proteggere i minatori e taglialegna, e intanto fanno le conferenze di pace. Non so se questo vi ricorda qualcosa. Gli scontri sono feroci, scorre molto sangue, e non solo indiano, come nel caso della strage di Fetterman, che era un militare, quello che aveva detto che con 80 uomini sarebbe stato in grado di annientare tutta la resistenza indiana. Invece la sua spavalderia il 21 dicembre dell'86 viene messa a tacere dal destino. Cavallo Pazzo usa un gruppo di guerrieri per attirare Fetterman e le sue truppe fuori dal forte fino a una gola tra le colline, e poi sentiamo la fine del racconto dalla voce dello storico Joseph Porter. Una volta dentro a questa trappola, dai 1500 ai 2000 Cheyenne, Lakota e guerrieri Arapaho colpiscono, sterminando Fetterman e i suoi uomini. Ironia della sorte, quando la morte li colpisce, il capitano Fetterman e i suoi uomini sono 80. La cosiddetta guerra di Nuvola Rossa si conclude nel 1868 con un accordo di pace firmato a Fort Laramie dallo stesso Nuvola Rossa e da altri importanti capi. E Cavallo Pazzo ovviamente non firma l'accordo, neanche vuole sedersi allo stesso tavolo con i bianchi, anche perché è vero che il trattato assegna per sempre ai Sioux le loro terre native, comprese le colline nere, ma è vero che l'accordo è fasullo, durerà pochissimo tempo, fino alla scoperta dell'oro del 74 da parte dei bianchi. E allora tutto cambia, in violazione al trattato, Nuvola Rossa e Coda Chiazzata, che hanno deposto le armi, hanno scelto di vivere in accordo con i bianchi, e questo è la loro rovina. E rimane a resistere solo Cavallo Pazzo, con lui a guidare chi non vuole arrendersi alla logica delle riserve è rimasto Toro Seduto. Insieme saranno protagonisti di un episodio della storia americana che rappresenta la più grande vittoria degli indiani sull'esercito a stelle e strisce e però l'inizio della fine delle tribù delle grandi pianure, la battaglia di Little Big Horn. È l'estate del 1876, sulle sponde del fiume Little Big Horn c'è uno dei più grandi accampamenti di sempre degli indiani. Ci sono la Dakota Sioux di varie bande, tra cui gli Unkpapa di Toro Seduto, ma anche gli alleati Cheyenne, in tutto 1000 guerrieri con le famiglie. Il governo ha lanciato loro un ultimatum di andare subito dentro nelle riserve. Loro non l'hanno fatto e ora sono considerati ostili. Contro di loro muove un generale che gli indiani chiamano Lunghi Capelli, e George Armstrong Custer è nei pressi del grande accampamento, ma non crede al numero di guerrieri presenti, sottostima gli indiani. Il tuo consiglio è che mi inoltri nella valle? Sì, signore. Secondo te non ci sono indiani laggiù, immagino. Non ho detto questo. Ci sono migliaia di indiani là in fondo, e quando vi avranno liquidato non ci resterà che una macchia di grasso per terra. Questo non è il fiume Washita, generale. E ad aspettarvi non ci sono donne e bambini indifesi, ma guerrieri Cheyenne e Sioux. Andate laggiù se avete coraggio. Vorresti indurmi in errore facendomi pensare che non vuoi che vada laggiù. Ma la verità inconfessata è che tu non vuoi davvero che io vada laggiù contro i tuoi amici. E così il generale Custer, con i suoi 800 uomini del settimo cavalleggeri, compie una serie di errori tattici strategici. Intanto divide le sue truppe in tre gruppi. Cerca la gloria, lui si dice che aspiri a candidarsi addirittura alla presidenza. E i battaglioni guidati dai suoi ufficiali si lanciano sul villaggio, però spuntano da ogni parte guerrieri urlanti che respingono l'attacco, si lanciano all'inseguimento delle truppe americane in ritirata. Insomma, in poche ore i guerrieri guidati da Cavallo Pazzo massacrano oltre 250 uomini, tra ufficiali, soldati e scout, e riportano poche perdite, forse meno di 40. Sul campo rimane lo stesso generale Custer, insieme ai suoi sogni di vittoria e alle sue diagnosi sbagliate sulle battaglie da fare. Però questo per i Sioux è l'inizio della fine. Quella battaglia viene raccontata dai giornali americani come una strage immotivata e non come un modo per difendersi. Insomma, i selvaggi contro le forze del bene. Insomma, un'onta da lavare col sangue. La democrazia americana messa in pericolo, e se vi ricorda qualcosa fate bene a farvelo ricordare. Pensate che ancora oggi sul posto c'è un monumento che ricorda solo i caduti dell'esercito e non i guerrieri nativi. Comunque le forze indiane si dividono dopo Little Big Horn. Il gruppo di Toro Seduto scappa in Canada, quello di Cavallo Pazzo affronta un inverno in condizioni disperate. I suoi guerrieri combattono altre battaglie in quei mesi, soprattutto contro i cercatori dell'oro, contro i coloni bianchi, però ormai il tempo dei cacciatori di bisonti è finito. Cavallo Pazzo, per salvare la sua gente dalla fame e dal freddo, si arrende con 900 Oglala a Fort Robinson nel maggio del 1877. E morirà lì mentre cercano di arrestarlo pochi mesi dopo, temuto dai bianchi per il suo carisma e dagli altri capi tribù per la stessa ragione. Cavallo Pazzo viene tradito di fatto dalla sua gente, i soldati gli chiedono di fare per loro la guida contro altri indiani in fuga, lui accetta controvoglia. Un traduttore Lakota riferisce ai soldati che il guerriero ha detto di volere tornare in guerra contro i bianchi. Insomma, l'ordine è di arrestarlo. Lui reagisce quando i soldati ci provano e un suo vecchio amico, piccolo grande uomo, gli trattiene le braccia. Un soldato lo colpisce alla schiena con la sua baionetta. cavallo pazzo, l'anima della resistenza Sioux, muore dopo giorni di agonia. Cavallo pazzo, una figura indimenticata tra la sua gente. I suoi discendenti vivono ancora oggi dove il governo americano li ha costretti, cioè nella riserva di Pine Ridge nel Sud Dakota. Il tasso di suicidio è tra i più alti del mondo, come anche il tasso di disoccupazione e quello di alcolismo. E insomma è alto il tasso di disperazione. È di fronte al monte Rushmore, dove sono scolpiti i faccioni di quattro presidenti americani. Da anni è in costruzione un monumento gigantesco, il Crazy Horse Memorial. È un'immagine del grande guerriero scolpita nella montagna. Quando sarà completata, sarà lunga 192 metri e alta 169. A oggi definito c'è il volto che guarda verso le Black Hill, quelle colline sacre che Cavallo Pazzo, lo strano uomo degli Oglala, ha difeso finché ha potuto. Abbiamo raccontato tre storie, tre vite simbolo dei valori sui quali oggi, nel giorno di Natale, forse dovremmo riflettere un po' di più: la beatitudine, il coraggio, la difesa della propria libertà. Abbiamo parlato di persone che hanno lasciato un segno con la loro vita, con i loro colpi d'ala, con i quali hanno volato in alto e hanno pagato anche, in alcuni casi, dei prezzi carissimi. Ognuno di noi può rischiare di cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che spesso è utile anche agli altri. Se avete dei commenti, volete farci anche solo gli auguri, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a trovarmi e a trovarci nelle nostre pagine dei vari social. Buon Natale a tutti voi, da tutti noi.